queste l'Italia, scuola le suore, squadra del cuore, giuro la loro, senza lavoro, senza rancore. Ehi, l'Italia, sì, questa è l'Italia, sì, questa è l'Italia, pistole e dialetto, parlano stretto. Frate, non è che non sento, che proprio non capisco, cazzo mi hai detto. Caffè ristretto, corretto, l'estate il fottuto cornetto, ragazzi cresciuto ai campetti. Può scendere in piazza per fare ammazzate, baciare gli anelli di mani mozzate, disoccupati con ferie pagate, la mafia non fa la vacanza e ti uccide d'estate. Ci fanno una serie TV, è tutto già visto come un déjà vu. La tecnologia che ci porta lontano, facciamo fatica a parlare italiano. Ancora problemi sociali, fortuna quest'anno vinciamo i mondiali. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, senza le buste del vomito. Corpi vestiti di gaffi e facce che cercano schiappi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, 90 minuti di applausi. Ehi, ehi, questa è l'Italia, una mente contorta. Chiudi la bocca o ti levo la scorta. Informazione sai, qui non informa razzisti che ascoltano il pop, qualcosa non torna. L'Italia è il suo fascino snob, Milano è l'asciugo e lo smog. Un'opera vecchia che dura da un tot, non trova un finale come Turandot. Poteri forti, aprono i conti ma chiudono i porti, rubano i soldi impossibili opporsi, la gente sorride coi tagli sui polsi. Pronto soccorso, siamo già morti. Lottando in un mare di odio, affogati dai nostri rimorsi. Dio non l'ho visto ma ci conosciamo. Odio la chiesa ma sono cristiano. Prima di essere un vero italiano, cerca di essere umano. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show. È come volare in economy, senza le buste del vomito. Corpi vestiti di gaffi e facce che cercano schiappi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, 90 minuti di applausi. L'estate in Italia, influenza latina, cercano la hit estiva, rum e cocaina, codeina, sembra che c'hanno la tosse canina, slaccio la cinghia, ciupami, ciupami, pinga, sti rapper di minchia, non gliela do vinta, ritornerò in cima per dargli una spinta. Avvisiamo i signori passeggeri che questo aereo si sta per schiantare al suolo, allacciate la cintura, le buone al mic. Prego sedetevi comodi, sta cominciando lo show, è come volare in economy, senza le buste del vomito. Corpi vestiti di graffi e facce che cercano schiappi, ma trovano sempre gli applausi. Applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi, applausi,